Forza 24, i gialli della storia. Ogni muscolo del corpo ti fa molto male. È molto sensibile al tocco. E ti fa un male cane. Le paralisi duravano per tutta la vita e non bisognava andare molto lontano per vedere persone paralizzate a causa della polio, con forme terribili. Non puoi chiedere a tutta la popolazione di andarsene, né di dare l'intera città alle fiamme. Insomma, non eravamo proprio disperati, ma molto vicini ad esserlo. Il dottore venne per fare una puntura lombare a mio fratello e lui cominciò a urlare forte. Mia madre scese con un cuscino, andò in giardino e si coprì le orecchie con quello, si accasciò e prese anche lei a urlare. Tra gli anni 40 e gli anni 50 la poliomielite ha ucciso e paralizzato nel mondo più di 500.000 di persone, soprattutto bambini. Il 26 aprile del 54 in una scuola elementare della provincia americana comincia la sperimentazione del primo vaccino contro la poliomielite. Lo scienziato che lo ha scoperto si chiama Jonas Salk. Ma l'artefice del più grande esperimento di salute pubblica nella storia americana ha sempre rifiutato qualunque profitto derivante dalla sua scoperta. Oggi a Mix 24 raccontiamo la storia di questa scoperta attraverso le voci dei testimoni, dei collaboratori dello scienziato che hanno vissuto quello straordinario momento. Una storia davvero straordinaria e avvincente per il bene di tutta l'umanità. Estate 1950. Nella piccola cittadina di Whitville, Virginia, sembra un periodo di vacanza come tutti gli altri. Chiuse le scuole, aprono le piscine comunali e i ragazzini si recano in massa verso la fontana di acqua frizzante su Main Street. Circa il 40% dei 5.500 residenti ha meno di 18 anni. Infilai un paio di stivaloni di mio padre e mi misi a sguazzare nel torrente. E quando feci per uscire dall'acqua, sentii come se qualcuno mi tirasse le gambe. Andai a casa e in breve sentii la febbre salire e cominciai ad avere nausea. La febbre saliva sempre di più. Stavo fuori a giocare e mi sentivo strana. Dopo entrai in casa e dissi a mia madre che mi sentivo male. Avevo un forte mal di testa. Mi girava tutto intorno. Poi sono svenuta. La polio quell'anno colpisce Whitville molto più duramente di qualsiasi altra zona degli Stati Uniti. Di giorno in giorno la situazione per noi peggiorava in modo evidente. Non sapevamo cosa fare, come fermarla, come tenerla a distanza. Eravamo in mezzo al guado. Altamente contagioso, il virus della polio tende a colpire durante l'estate. Era molto prevedibile. Arrivava giugno, poi luglio, e si cominciavano a vedere i casi di polio che continuavano fino a settembre. I sintomi passano da un leggero mal di testa con nausea fino a debolezza muscolare, paralisi o morte. Nel 1921 la malattia colpisce un americano molto in vista, proprio quando comincia a brillare come astro della politica. La polio in genere colpisce i bambini. Franklin Delano Roosevelt, invece, ha 39 anni. Dopo aver contratto un'improvvisa febbre e geloni, perde l'uso di entrambe le gambe. Roosevelt lavora per rimettere in sesto sia il corpo che la sua carriera. Acquista una residenza in Georgia, le cui acque sorgive hanno fama di avere poteri taumaturgici, e la trasforma nella Georgia Warm Springs Foundation, impegnata a riabilitare pazienti affetti da polio di tutti gli Stati Uniti. Nel 1928, ancora paralizzato ma estremamente vitale, Roosevelt lotta per riconquistare il palcoscenico della politica nazionale. Per tenere viva la lotta contro la polio, si rivolge al suo amico Basil O'Connor. Un uomo che non sa quasi nulla di polio, ma che ha grande dimestichezza con potere e persuasione. Quando Roosevelt conquista la Casa Bianca nel 1933, O'Connor lavora senza risparmiarsi per tenere viva l'organizzazione. L'America sta sperimentando la peggiore depressione economica della sua storia e le donazioni dei ricchi, principale fonte di sostentamento per le associazioni benefiche, sono ormai agli sgoccioli. Ma cosa ben peggiore, i casi di polio continuano a salire. Nel 1938 O'Connor non sa molto degli studi sulla polio. Ciò che sa è che i pazienti affetti da questa malattia dipendono interamente dagli enti benefici, non dal governo. Senza un nuovo metodo di raccolta fondi, la fondazione può offrire poco più che qualche speranza. O'Connor decide che è arrivato il momento di provare qualcosa di più coraggioso. L'unico modo per combattere la paralisi infantile è con i soldi. Per questo vi sto chiedendo questa sera di inviare qualche centesimo al presidente Roosevelt alla Casa Bianca. La campagna viene battezzata la Marcia degli Spiccioli. La campagna della Marcia degli Spiccioli va oltre ogni più rosea aspettativa, raggiungendo la somma di $1.800.000. Una cifra esorbitante. Intanto però, ogni estate, sempre più bambini vengono colpiti dalla polio. Basil O'Connor si rende conto che la sua è una corsa contro il tempo. Per mantenere viva la raccolta fondi, O'Connor cambia tattica. Come voi saprete, voglio molto bene ai bambini, specialmente se piccoli. Non ho pregiudizi. Direi che sono imparziale. Il nuovo messaggio della Marcia degli Spiccioli fa paura. La polio può colpire chiunque, in ogni momento. Ma la campagna di O'Connor racconta solo una parte della storia. La polio può essere devastante, ma le probabilità di contrarla in fase acuta sono piuttosto ridotte. Quelle di rimanere paralizzati ancora minori, di morire di polio estremamente remote. Ogni estate a Whitville e in centinaia di città degli Stati Uniti, la gente prende misure straordinarie per evitare il contagio. Arrivano perfino a spruzzare il DDT, sebbene tutti gli esperti insistano a dire che le mosche non diffondono il virus. Per un lunghissimo periodo nessuno si azzardava a farci visita o si avvicinava a casa nostra. Erano terrorizzati, non volevano prendersi la polio. Non permettevano a mia madre o a mio padre di entrare in alcuni negozi. Semplicemente li cacciavano. Nel 1949 O'Connor porta la campagna contro la polio a un nuovo livello. Per più di un decennio, gli esperti, finanziati dalla Marcia degli Spiccioli, si sono concentrati sullo sviluppo dell'unica via praticabile per fermare la polio, il vaccino. Ora, dichiara O'Connor, il miracolo da lungo atteso sta per avverarsi. Nonostante le campagne di O'Connor siano un successo dal punto di vista della raccolta fondi, non ci sono sensibili progressi relativi alla ricerca. Il vaccino che ha annunciato secondo la comunità scientifica è ancora lontano. Ci vorranno anni per realizzarlo. Nel 1951, 2 anni dopo la promessa di un imminente vaccino antipolio, O'Connor non ha molto da dimostrare. A settembre, in viaggio verso casa da una conferenza in Europa, incontra uno scienziato motivato e impaziente come lui. Jonas Salk, un ricercatore 36enne dell'Università di Pittsburgh. Salk aveva una grande fiducia in se stesso. Definirlo ambizioso è un eufemismo. Diciamo che era super ambizioso. Salk e O'Connor vanno molto d'accordo. Le loro personalità si fondevano perfettamente, condividevano grandi obiettivi e si consideravano complementari tra loro. I grandi obiettivi di Salk includono un piano per un vaccino antipolio non convenzionale. Fino a quel momento, infatti, i ricercatori si sono concentrati sulla ricerca di un vaccino da un virus vivo, come quelli contro la febbre gialla e il vaiolo. Un processo complesso che richiede molto tempo. I vaccini da virus vivo costituivano lo standard più alto e l'intera comunità scientifica sosteneva che quel tipo di vaccino era l'unico che avrebbe funzionato. Jonas Salk non la pensa così. L'esperienza accumulata sviluppando un vaccino contro l'influenza gli suggerisce che un vaccino da virus ucciso non solo è possibile, ma anche più rapido. I promotori del vaccino da virus vivo liquidano le idee di Salk definendole un'eresia scientifica mal concepita. Tra tutti, Albert Sabin. Albert Sabin aveva lavorato per molti anni su un vaccino di virus vivo ed era convinto che il suo vaccino sarebbe stato perfetto. Ma sapeva che ci sarebbe voluto molto tempo per metterlo a punto. Le discussioni con O'Connor vertevano proprio su questo, sul tempo. Nel laboratorio dell'Università di Pittsburgh, la ricerca di Salk per l'individuazione di un vaccino antipolio decolla. Il laboratorio del dottor Salk era una sorta di fabbrica in cui lavorava una grande quantità di persone. Tutti eseguivano i suoi ordini. Al contrario, molti laboratori erano più interessati a espandere la prospettiva scientifica piuttosto che a raggiungere un obiettivo. Quasi subito Salk si rese conto che il suo vaccino da virus ucciso, almeno negli animali, era estremamente efficace. I suoi test sulle scimmie ottennero risultati straordinari. Avevano un alto livello di anticorpi. Nessuna di loro sembrava prendersi la polio. Capì allora di essere sulla strada giusta per arrivare a qualcosa di molto importante. Dopo il successo delle sue sperimentazioni sulle scimmie, Salk preme per il successivo, quanto rischioso, passo. La sperimentazione del vaccino sugli esseri umani. O'Connor si dice d'accordo, ma Sabin lancia l'allarme. Salk si sta muovendo troppo velocemente. I suoi piani potrebbero seriamente mettere in pericolo vite innocenti. Il 2 luglio 1952, assistito dallo staff dell'istituto D.T. Watson per minori menomati, Salk inietta il suo vaccino su 43 bambini. Poche settimane dopo i test di Watson, Salk inietta il vaccino nei bambini ritardati o con deficit mentali della scuola statale di Polk. Poi somministra il vaccino anche alla sua famiglia. Un gesto non certo facile. Nessuno si ammala di polio. Nel 1952 in America si registra la peggiore epidemia di polio di sempre. Molti bambini e adulti contraggono la malattia e più i malati sono adulti e più alto è il rischio di paralisi o morte. Le corsie degli ospedali sono piene di macchinari che aiutano i pazienti a respirare nella fase più difficile della malattia. Sono i polmoni d'acciaio, una nuova scoperta che riesce a salvare molte vite. Novembre 1953. Basil O'Connor fa un annuncio sbalorditivo. La Marcia degli Spiccioli pianifica, coordina e finanzierà un esperimento umano senza precedenti, testando il vaccino di Salk su centinaia di migliaia di bambini in età scolare. Ma Albert Sabin teme che iniettare il vaccino possa causare la polio, anziché prevenirla. Sabin era molto aggressivo e sapeva essere molto caustico. Stava facendo di tutto per rimandare la prova sul campo, per sminuire il vaccino di Salk. Disse: questo vaccino non è pronto per essere testato. Dovremmo aspettare almeno altri 5 anni. Dovremmo aspettare altri 10 anni. O'Connor non vuole aspettare. Un'altra stagione di polio è alle porte e lui non può permettere che qualcosa fermi la sperimentazione sul campo. Dice: si tratta di uno dei più importanti progetti della storia della medicina. Stavano chiedendo ai genitori americani di somministrare ai propri figli un vaccino del cui successo nessuno era certo. nessuno sapeva quanto potesse essere sicuro. Non era stato testato a fondo sugli esseri umani. Fu un enorme atto di fede. 26 aprile 1954. La marcia degli spiccioli inizia la sperimentazione sul campo. A giugno già 2 milioni di bambini hanno preso parte alla campagna di vaccinazione. È il più vasto esperimento umano nella storia degli Stati Uniti. I genitori aspettano quasi un anno per conoscere i risultati. La mattina del 12 aprile 1955, la marcia degli spiccioli fa il suo annuncio. In quel periodo non si parlava d'altro. Una storia che era stata tenuta nascosta come un segreto di Stato. Tutto il mondo era in attesa. Una conferenza stampa rivela i risultati che tutti attendono. CBS News presenta un reportage speciale. Il vaccino antipolio di Salk è un successo. Il vaccino funziona. Per Jonas Salk è un successo assoluto, riconosciuto da tutti gli Stati Uniti e da tutto il mondo. Erano tutti così felici. È stata la storia più soddisfacente che abbia mai seguito in 44 anni di giornalismo. Il sollievo che si scatenò appena si diffuse la voce che si poteva fare qualcosa per fermare la malattia fu come travolgente. Jonas Salk divenne un eroe americano. Questa terribile malattia era stata sconfitta da un uomo che ognuno di noi aveva aiutato. Era come se quello scienziato fossimo noi. Questo vaccino ripagava di 20 anni di spiccioli dati in beneficenza, 20 anni di volontariato. Era una vittoria per milioni di persone comuni che avevano fatto tutto il possibile per fermare il flagello della polio. Sono passati 5 anni da quando la malattia si è diffusa a Wheatville. Ora anche quella comunità, come migliaia di altre in tutta l'America, viene finalmente raggiunta dal vaccino. Mi ricordo quando ascoltavo il dottor Salk di quanto fosse appassionato. Quell'uomo aveva salvato il mondo dalla polio. Ma quella che sembrava una vittoria senza discussione subisce un'improvvisa battuta d'arresto. Ci sono dei problemi. Ma a meno di un mese dall'inizio delle vaccinazioni, la crociata trionfante della nazione contro la polio subisce un brusco arresto. Come medico del servizio pubblico, ho raccomandato 2 giorni fa che il programma di vaccinazione contro la poliomielite sia temporaneamente rimandato. Migliaia di bambini vaccinati con il nuovo vaccino di Salk si ammalano. Siamo passati da quella incredibile situazione di euforia per una malattia che sta per essere sconfitta a un vaccino che produceva esso stesso ancora più casi di polio. Tutti i vaccini vennero ritirati dal mercato finché non si fosse capito esattamente cosa ci fosse di sbagliato. Gli investigatori capiscono subito che tutti i bambini malati sono stati contagiati da una partita difettosa di vaccino prodotta nei laboratori Cutter a Berkeley, in California. Dopo uno screening del governo frettoloso e male organizzato, quella partita era stata definita sicura. In realtà conteneva il virus vivo, virulento, della polio. Il caso dei laboratori Cutter, poi, non è isolato. Tutte le case farmaceutiche hanno enormi difficoltà a produrre la formula Salk. L'unica persona che può dirsi soddisfatta è Albert Sabin. Sabin era sempre stato dell'idea che il vaccino di Salk non solo non fosse efficace, ma che potenzialmente non fosse neppure sicuro. Dopo Cutter, a tutti quelli che gli chiedevano spiegazioni, ed erano molti, Sabin rispondeva: «Io ve lo avevo detto». Nonostante la crisi, la fiducia di O'Connor nel vaccino di Salk non vacilla. A seguito di quella tragedia, le procedure vengono controllate maggiormente e le regole diventano più severe. Ma dopo soli 8 giorni dall'annuncio dello stop, il programma di vaccinazioni nazionale riprende. Gli americani continuano a vaccinare i propri bambini. Hanno aspettato quel momento per anni. Non possono attendere ancora. Il programma nazionale di vaccinazione antipolio, guidato dalla marcia degli spiccioli e ora supportato dal governo degli Stati Uniti, si dimostra sicuro ed estremamente efficace. Nel giro di poche stagioni, il numero di casi di polio negli Stati Uniti diminuisce del 50%. I ricordi di quelle estati piene di paura cominciano a sbiadire. A nessuno importava più della polio. Era finita. Mia madre, però, che torna a casa dal centro di riabilitazione, non è la storia di una vittoria. È la storia di una sconfitta. Dopo un anno di terapia, riprese a stare male. E questo ebbe ripercussioni su tutta la famiglia, che si disintegrò intorno a lei. Quando Catherine Black ha 6 anni, sua madre muore. Nel 1962 il vaccino di Albert Sabin da un virus vivo è finalmente pronto. Un vaccino orale, più facile da somministrare e più economico da produrre di quello di soli. La polio, un tempo una delle principali paure d'America, diventa una malattia del passato. Nel 1994, 44 anni dopo che l'epidemia ha colpito Wheatville in Virginia e quasi 60 anni dopo che Basil O'Connor ha per la prima volta invitato gli americani a mandare i loro spiccioli alla Casa Bianca, gli Stati Uniti dichiarano che la polio è stata debellata. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.